23. Gli occhiali del re. In luglio la routine della scuola venne di nuovo interrotta quando il re decise che la famiglia avrebbe dovuto accompagnarlo ad Ayutthaya. Anche Anna venne invitata e a Luis il cambiamento piacque moltissimo. Raccontò la sua esperienza alla sorella. «Abbiamo fatto un giro piacevole sullo yacht del re che si chiama Royal Sovereign. Ho visto idoli enormi e ne ho persino preso uno piccolo». Anche Anna apprezzò la vacanza. Ma quando tornò a casa scoprì tristemente che i ladri le avevano fatto visite e che si erano portati via tutto quanto c'era di valore. Lei non aveva dubbio che il responsabile fosse il suo antico nemico, il fratellastro del Kralahom e interprete. L'antagonismo che era nato tra i due durante il primo incontro non era mai scemato e lui era il suo vicino di casa. Riuscì a ricomprare alcune cose in un negozio di pegni, ma le altre erano svanite per sempre. Gli allievi a scuola erano cresciuti di numero e si rese necessario dividere le classi. Alcuni bambini progredivano più rapidamente di altri e questo richiese una ulteriore suddivisione. Anna da mesi studiava le sue allieve più grandi, sperando che almeno una di loro potesse aiutarla a insegnare ai più giovani. Lady Sonclin era decisamente all'altezza del compito, ma a causa della sua posizione sfortunata nell'harem, Anna esitava a chiedere il suo aiuto. Inoltre la principessa Mon aveva dato vita a un suo progetto che la impegnava molto e Anna la aiutava due volte alla settimana. Nel corso delle sue letture aveva scoperto la capanna dello zio Tom e ne era stata affascinata. Rilesse il libro al punto che parlava dei personaggi come se li conoscesse intimamente da anni. Soffriva per la morte prematura della piccola Eva come se si fosse trattato di sua figlia. Ogni volta che leggeva quella parte del libro piangeva e per giorni andava in giro con il viso triste di una persona in lutto. All'improvviso le venne l'idea di tradurlo. Eccitata e felice si mise al lavoro. Il suo entusiasmo era tale che decise persino di aggiungere al suo nome quello dell'autrice e si fece chiamare Harriet Beecher Stowe Sonclin. La seconda candidata come assistente insegnante era una delle ancelle del re che si chiamava Prang. Aveva circa 16 anni e indossava sempre abiti dai colori vivaci. Era alta e magra, con il colorito scuro, i capelli corvini e gli occhi ridenti. Anna l'aveva notata immediatamente, il primo giorno che era venuta al tempio. Era sempre di buon umore, a differenza delle altre donne. Aveva i capelli lunghi che portava raccolti, trattenuti da fermagli ingioiellati o in una ghirlanda di fiori freschi. Il sorriso sincero con cui si era avvicinata ad Anna quel primo pomeriggio era diverso da quello timido delle altre ragazze il loro primo giorno di scuola. Subito Anna trovò entusiasmante insegnarle. La mente della ragazza era svelta e brillante. In breve Anna si convinse di aver individuato la persona che avrebbe potuto aiutarla. La ragazza esplorava il mondo dei libri inglesi con entusiasmo e imparava in memoria lunghi brani solo per il piacere di conoscerli. Poi, dopo aver lavorato per mesi con una passione che Anna non aveva incontrato fino ad allora, l'atteggiamento di Prang cambiò. Era vivace, come al solito, ma apatica per quanto riguardava la lezione. Anna ne fu delusa perché pensava che nel giro di qualche mese avrebbe potuto affidarle qualche classe. La maggior parte delle donne dell'harem aveva mostrato un breve interesse iniziale per la scuola per poi stancarsene, come la signora Matun aveva previsto. La disciplina intellettuale era loro estranea. Sfumato il senso di novità, tornarono alle loro occupazioni. Prang era sembrata diversa, quindi Anna cercò in vari modi di risvegliarne l'interesse, pensando che la ragazza avesse semplicemente bisogno di uno stimolo. Un giorno Prang lavorava con impegno sillabando parole, scrivendo e traducendo per ore. Il giorno seguente era apatica e indifferente. Passava il tempo tirando maliziosamente calci ai bambini sotto il tavolo, nascondeva i loro libri, faceva smorfie. Se Anna protestava, mancava da scuola per giorni o anche per settimane. D'altro lato, se lei la ignorava, approfittava dell'indulgenza per scombussolare l'ordine della scuola. Ah, se Prang non fosse stata così capace, Anna l'avrebbe trattata duramente, senza rimorso, anche se avesse significato il suo ritiro definitivo dalla scuola. Ma Anna non poteva dimenticare la segreta convinzione che in questa ragazza ci fosse la stoffa di una brava insegnante. Il problema era trovare il modo di disciplinare l'energia incontrollata di Prang e di frenare la sua predisposizione alle marachelle. La ragazza era come un puledro che scalciava al sole, deciso a non lasciarsi sottomettere. Anna pensò che aveva più il ruolo dell'istruttore che dell'insegnante e non sapeva decidere se continuare a essere gentile o usare la frusta. Poi, una mattina, Prang arrivò a scuola molto tardi. Anna sollevò lo sguardo seccata e vide la ragazza che avanzava lentamente. Sul viso aveva un'espressione contrita che bloccò l'aspro rimbrotto sulle labbra dell'insegnante. «Sa come odio che la gente arrivi tardi», pensò, addolcita dallo sguardo dispiaciuto di Prang. «Non la rimprovererò davanti agli altri». Non appena la ragazza si fu seduta, Anna iniziò a sentire risatine e gridolini. Non riusciva comunque a vedere niente di strano, rimproverò i bambini e si rivolse di nuovo alla classe riunita intorno al tavolo, ma qualche risata soffocata le disse che stava succedendo qualcosa che divertiva i bambini. Guardò Prang con sospetto, ma la ragazza, seduta all'estremità del tavolo, leggeva un libro. Poi si accorse della ragione dell'eccitazione. Sulla spalla di Prang c'era una scimmietta nera. Teneva un libro al contrario e sembrava molto assorta nella lettura. La vista fu così buffa che anche Anna non poté fare a meno di ridere. A questo segnale tutta la classe diede sfogo all'ilarità che aveva cercato di controllare. La scimmia si mise a fare il pagliaccio, giocando con i capelli di Prang, che fingeva di non accorgersi di niente, mentre i bambini ridevano divertiti. Anna sospirò. Se la ragazza voleva creare una situazione in cui l'insegnante doveva far uso dell'autorità, non avrebbe potuto sceglierne una migliore. «Prang, la tua scimmia sta disturbando la lezione, portala fuori, per favore!» La ragazza soppesò Anna con lo sguardo. «Per favore, la lasci stare, Mem Cha», implorò. «Sarà brava. Mem, tu vieni qui. Fa la brava o la Mem ti manderà via». Anna scosse la testa con fermezza. «Mi piacerebbe tenerla qua, Prang, è davvero brava, ma la classe non lavorerà finché lei rimane. Quindi legala fuori e alla fine delle lezioni ci divertiremo tutti con i suoi trucchi». La ragazza mise il broncio. «Se non la lascia restare non verrò più a scuola». Poi le fece il suo sorriso più accattivante. «Oh, le dia un'altra occasione, Mem Cha, prometto che non darà fastidio a nessuno». Ordinò a Mento di prendere un libro e continuare a leggere. La scimmia smise di giocare coi suoi capelli e saltò sul tavolo. Si sedette tranquillamente sulla sua spalla e finse di studiare, sbirciando i bambini da sopra il libro. Allo stesso tempo roteò gli occhi con un'espressione curiosamente umana, come a dire «l'insegnante è una vecchia bisbetica». I bambini non resistettero, esplosero in una risata fragorosa e presero a saltare sulle sedie. Anna dispiaceva che Prang avesse sollevato il problema che lei stessa aveva evitato così accuratamente, ma dal momento che la sfida era stata lanciata pubblicamente era impossibile evitarla. «Prang!» impose Anna perentoriamente. «Porta fuori Mento!» Immediatamente in aula tornò la calma. La ragazza si alzò, con gli occhi che brillavano per la rabbia. A uno prese i libri e li buttò a terra, poi le matite, il quaderno e alla fine la lavagna, che si fracassò rumorosamente. Allora prese la scimmia in braccio e si allontanò. Passarono giorni e settimane senza che lei ritornasse. Anna andò a trovarla e se ne lamentò, ma inutilmente. La faccenda si sarebbe fermata lì, per quanto Anna odiasse ammettere la sconfitta, se non fosse stato per la scomparsa degli occhiali del re. Ne aveva diverse paia, ma uno gli piaceva in particolare. Se li era tolti e li aveva lasciati nello studio mentre andava a fare un sonnellino. Quando era tornato erano scomparsi. Fu invaso da una rabbia che durò per giorni e tutti ne soffrirono. Niente di quello che si faceva andava bene. Il cibo che gli veniva messo davanti non era commestibile. Decine di donne vennero gettate in prigione. Molte altre vennero frustate alla minima offesa. Le donne che si occupavano di lui cercarono in ogni angolo delle numerose residenze del re, ma senza successo. Le Amazzoni iniziarono la perquisizione metodica delle case delle donne e quando anche le loro ricerche non diedero frutti, una specie di panico impotente scese sull'arme. L'esistenza all'interno ridusse la sua attività ai frenetici sforzi di sfuggire alla vendetta del re. Poi, a sua maestà, venne in mente di offrire una ricompensa. La mossa si rivelò vincente. Una vecchia riportò gli occhiali riferendo al re che le erano stati portati in segreto la sera prima da una delle sue ancelle. con qualche pressione ne rivelò anche il nome, e quando Anne il mattino seguente entrò a palazzo, la prima cosa che vide furono 15 giovani ancelle che venivano pubblicamente frustate dalle amazzoni per avere partecipato alla cospirazione per rubare gli occhiali del re. Poi, in lacrime, vennero portate in prigione, dove sarebbero rimaste rinchiuse per parecchie settimane. Tra di loro c'era Prang. Al termine delle lezioni, Anna si recò nella prigione che ormai le era familiare e scoprì dall'amazzone di guardia che, come lei aveva già intuito, Prang era stata l'ideatrice della marachella. Era pazza! Avrebbe perso la testa prima di raggiungere i 20 anni. Poteva tormentare la sua insegnante d'inglese e farla franca, ma non il re. Quando Anna giunse in prigione, le ragazze si erano asciugate le lacrime e stavano giocando a saba sul pavimento. Mento era seduta su una panca vicina e schiacciava noccioline rimpinzandosi furtivamente. Anna chiamò Prang e la ragazza arrivò sorridendo, come se non fosse stata appena scoperta e punita. «Perché hai rubato gli occhiali del re?» chiese Anna con tono di rimprovero. «Perché?» ripeté la ragazza scuotendo la testa. «Perché stavamo morendo di noia per la stupidità della nostra vita e cercavamo qualcosa di interessante da fare. Io ho suggerito di compiere qualcosa di veramente coraggioso questa volta, tanto per vedere se riuscivamo a portare un po' di eccitazione in questo posto monotono. Abbiamo parlato di tutto quello che ci veniva in mente e siamo state d'accordo che sarebbe stato divertente nascondere gli occhiali preferiti del re e vedere che cosa sarebbe successo. Abbiamo preparato un piano. Quando è stato il mio turno di occuparmi di Sua Maestà, ho fatto scivolare gli occhiali dal tavolo e li ho nascosti nel davantino mentre lui era di sopra a riposare. Dopo un po' è sceso, si è accorto della sparizione, si è infuriato e naturalmente noi ci siamo eccitate moltissimo. Era molto meglio di come avevamo immaginato. A fatica ci siamo mantenute serie. Avrebbe dovuto vederlo, ruggiva e saltava in tondo come un burattino, pestava i piedi per terra e tuonava come un animale selvaggio. Buttò indietro la testa e rise di cuore. Pensavo che gli sarei scoppiata a ridere in faccia. Non appena finito il nostro turno siamo corsi in camera mia a ridere come matte perché il nostro trucco era riuscito anche meglio di come speravamo. Ma dopo un po' abbiamo avuto paura perché il re non dimenticava i suoi occhiali ed era sempre più arrabbiato. Non eravamo sicure di cosa avremmo dovuto fare. Avevamo programmato di restituire gli occhiali in modo che sembrasse che il re li avesse messi in un altro posto e poi se ne fosse dimenticato, ma nessuno osava provarci. Avevamo paura di farci scoprire. Le amazzoni li cercavano dappertutto, anche nelle case. Poi, quando il re ha offerto una ricompensa, ho temuto che una delle ragazze facesse la spia per avere il denaro. Perciò sono andata a venderli a una vecchia che vive dietro l'angolo e le ho fatto promettere di dire che li aveva trovati per terra e che non sapeva da dove venivano. Ma la vecchia malvagia li ha riportati al re per avere la ricompensa e poi ho fatto la spia, mandando tutte in prigione. Ma le prometto che si pentirà amaramente di quello che ha fatto». «Tu dovresti pentirti, Prang», la rimproverò Anna. «Il tuo scherzo sarebbe stato divertente se avessi avuto 6 anni, ma a 16 è imperdonabile. Guarda quante donne hanno dovuto soffrire per la rabbia del re a causa del tuo stupido scherzo. Niente di ciò che fa del male agli altri è divertente». Poi addolcì la voce. Era naturale che questa ragazza trovasse insopportabili le mura dell'harem. Se la noia portava alcune donne al divertimento illecito del gioco, spingeva la ragazza a fare scherzi. «Immagino che sia noioso, Prang», continuò. «Ma se venissi a scuola ogni giorno, avresti qualcosa da fare e non ti annoieresti così tanto. Quando sarai libera, voglio che tu torni a scuola e studi davvero. Sarà il tuo modo di dirmi che ti dispiace di aver gettato i libri per terra e di aver fatto a re uno scherzo infantile». La ragazza guardò Anna in modo sbarazzino. «Ma non mi dispiace», obiettò. «Non mi dispiace nemmeno un po'. È stato divertente». E scoppiò in una solenne risata. «E anche essere frustate un cambiamento in questo posto noioso», concluse con tono di sfida. Anna la lasciò. La ragazza era sicuramente un puledro. «Va bene», pensò, «sarò tenace e gentile, ma non rinuncerò finché non le avrò messo la sella». L'analogia non la soddisfò. «Voglio dire», rifletté mentre tornava a casa in barca, «che devo aiutarla a mettersi la sella prima che si distrugga, così com'è un pericolo per il suo futuro». Anna si ricordò di quando aveva 16 anni e si rese conto di quanto le sarebbe sembrato orribile e limitata l'esistenza di Prang. Una bella ragazza, piena di vitalità, non avrebbe mai dovuto essere costretta a un'esistenza così monotona. Anna provò un moto di simpatia per l'inutile esplosione di ribellione di Prang, e comunque la vita dell'Arm era l'unica che Prang potesse avere. La scuola e i libri l'avrebbero resa meno noiosa. Quando tornò in libertà, Anna l'aspettò a scuola, ma lei non venne. Allora andò a casa sua, ascoltò le sue teorie, le raccontò di Avis in Inghilterra, ma non nominò più la scuola. Dapprima si rese conto che Prang le era ostile, ma anche quando si accorse che questo atteggiamento si ammorbidiva, Anna non menzionò la scuola. Continuò ad andare a trovarla, sempre piacevole, sempre interessata. Poi, improvvisamente, un giorno, Prang scoppiò in lacrime, le gettò le braccia al collo, riversando in un torrente di parole la sua infelicità, la noia della vita a palazzo, accusandosi per il suo atteggiamento ingrato verso Anna, l'unica persona che si era interessata a lei. Ecco, l'esca era stata lanciata. Da quel giorno, per tutto il tempo in cui Anna rimase in Siam, Prang fu la sua leale assistente a scuola. 24. Il compleanno del re. Era un pomeriggio piovoso di metà ottobre, la scuola era in piena attività quando arrivò un paggetto al Tempio delle Madri dei Liberi a cercare Anna. Sua maestà ordina alla Mem di venire immediatamente nella sala delle udienze. È successo qualcosa. Anna era seccata di dover abbandonare i libri di scuola nel mezzo di una lezione, ma non aveva scelta. Prese l'ombrello e si affrettò sotto il temporale. Quando raggiunse la sala delle udienze era fradicia. Il re sembrava particolarmente eccitato e incoerente. Marciava avanti e indietro a passi rapidi e arrabbiati e strillava esasperato: «Il 18 ottobre 1863!» Quando raggiunse l'estremità della sala, si girò di scatto e si lanciò verso Anna con lo stesso grido. Lei si fermò sbalordita. Lui non si era accorto del suo ingresso, ma continuò la sua marcia curiosa per circa mezz'ora, saltando su e giù e continuando a gridare. Lei era perplessa e un po' spaventata dal pazzo che si trovava di fronte, ma non sapeva se correre via o aspettare i suoi comodi. Come per aumentare la sua confusione, le si avvicinò gridando: «Mem, capisce il significato della parola agilità?» Anna rispose con freddezza: «Vostra maestà mi ha dato una dimostrazione molto pratica della parola». «Ah ah!» rise il re. «Vero, molto vero. Lei capisce la parola inglese agilità». Poi, montando nuovamente la sua collera, continuò: «Il 18 ottobre 1863 compirò 59 anni e lei vede che sono giovane e forte come sempre». Le agitò sotto il naso il ritaglio di un giornale. «Ma certi missionari americani hanno pubblicato su un giornale inglese che sono un piccolo uomo. Come posso essere un piccolo uomo? Un re non può essere un piccolo uomo». E riprese la marcia furiosa. Anna fu scossa da una risata silenziosa. «Ma vostra maestà!» protestò rivolta alla sua schiena che si allontanava. «Quello che i missionari volevano dire è che lei è un uomo sottile, minuto, e non che non è importante come ha interpretato lei». La rabbia gli impediva di sentire e per quanto lei cercasse di spiegare, lui si rifiutava di ascoltare. Ordinò ad Anna di sedersi e scrivere gli inviti per una cena di compleanno da tenersi il 18, 3 giorni dopo. Dovevano essere inclusi tutti gli europei e gli americani presenti a Bangkok e lei doveva occuparsi anche della tavola nella sala delle udienze in modo che tutto fosse preparato secondo quello che richiede l'etichetta europea. «Ma vostra maestà!» protestò lei. «Il vostro compleanno quest'anno cade di domenica. I missionari di certo declineranno l'invito». «Bene, allora, si farà il lunedì. Devono venire. Vedranno che non sono un uomo minuto». Anna sospirò a questa nuova serie di incarichi. Era inutile ricordare al re che la scuola era in funzione. Non poteva fare altro se non interrompere le lezioni e preparare gli inviti. Prendendo l'elenco dei residenti stranieri, iniziò a scrivere. Erano più di 50 gli inviti da mandare e il lavoro era noioso. Inglesi, francesi, americani, spagnoli e portoghesi, tutti erano invitati. E dopo aver consegnato tutti gli inviti al messaggero del re, si occupò della tavola. Avrebbe messo il console inglese Sir Robert Schoenberg, che aveva l'età del re ed era il membro più anziano del piccolo corpo diplomatico, a capotavola e lei avrebbe occupato il posto di fronte a lui. Erano attese 82 persone. La mattina del 19 furono allestiti i tavoli e vennero portate delle belle sedie intagliate. comparvero delle donne con metri di seta bianca sontuosamente ricamata, che andava da una parte all'altra del tavolo e doveva servire come tovaglia. Ma non c'erano tovaglioli. Quando Anna mandò di corsa alcune delle donne a cercarli, ne arrivarono altre con un magnifico servizio di piatti di oro puro di fattura molto antica. Non aveva mai visto niente di così superbo, nemmeno in un museo. C'erano piatti, piatti da portata, bicchieri, vasi, candelabri e ornamenti di ogni forma e misura, tutti squisitamente lavorati e arricchiti con pietre preziose. Per Anna fu un divertimento preparare la tavola con quel bel servizio, ma per il momento non aveva forchette o altre posate e quando ne fece richiesta una donna le portò un cesto di bastoncini, anche questi d'oro. «No, no, non vanno bene!» e rimise le donne al lavoro. Riuscirono a trovare soltanto una scatola di vecchie posate del tipo più comune, arrugginite, e Anna dovette accontentarsi perché sembrava che non ce ne fossero altre. Quando nel tardo pomeriggio Anna andò a vestirsi per la cena, i tovaglioli non erano ancora arrivati, ma tutto il resto era pronto. La sala era elegantemente decorata e la tavola, che andava da un'estremità all'altra della grande stanza, sembrava piegarsi sotto il peso dell'oro e dell'argento che reggeva. Il profumo dell'incenso riempiva la stanza, non c'era nient'altro che Anna potesse fare se non insistere sull'importanza dei tovaglioli con i servi, i quali sembravano non rendersi conto della sua preoccupazione. Quando iniziarono ad arrivare gli ospiti, il re in persona ricevette gli uomini in uno dei salotti. Tutti si complimentarono per la raffinatezza con cui le signore dell'interno avevano sistemato i fiori. La conversazione scorreva piacevolmente mentre Anna accompagnava le signore in una stanza che era preparata per loro. Il re intratteneva i signori sparando di propria mano 21 colpi di fucile per festeggiare il proprio compleanno. Tra gli ospiti, la maggior parte dei quali si conoscevano da molto tempo, c'erano due estranei, Sir Richard McCausland, magistrato di Singapore, e sua sorella. Erano in viaggio attraverso il Siam e la Birmania ed erano opportunamente arrivati a Bangkok il 16 ottobre con il Chow Phya. Sir Richard era in corrispondenza con il re da lunga data. Inoltre, era da lui particolarmente apprezzato a causa della sua opposizione alla politica estremistica dei colonnelli Orfeur Kevenach, governatore di Singapore, Malacca e Penang. L'onorevole signorina McCausland indossava un abito da sera all'ultima moda con un'ampia scollatura e le maniche corte. Al suo confronto le altre signore sembravano trasandate, soprattutto perché aveva le braccia e il collo sorprendentemente bianchi e di proporzioni squisite. Anna la presentò ad alcuni ospiti e poi si spostò verso la sala da pranzo, sperando ardentemente che nel frattempo fossero arrivati i tovaglioli. Quando tutti gli ospiti furono riuniti intorno al tavolo e pronti a sedersi, il re entrò, reggendo due bottiglie di acqua di rose da versare, come voleva la tradizione siamese. All'improvviso si fermò. Sapeva che Sir Richard avrebbe portato sua sorella, ma non l'aveva ancora vista. La visione inaspettata della bellezza della ragazza irlandese lo lasciò senza parole. Le poche donne bianche di Bangkok avevano da tempo perso il loro splendore e avevano acquistato il colorito della gente che vive da molti anni ai tropici. Ma la signorina McCausland, appena arrivata dall'Inghilterra, sembrava una rosa in piena fioritura in un giardino di campagna. Il re sembrò completamente sopraffatto e si immobilizzò con la bocca leggermente aperta. Quando riuscì a muoversi, le chiese per quale ragione sia ornata più di tutte le altre, perché potessi osservarla? La signorina McCausland arrossì violentemente senza sapere cosa rispondere, ma il re, ignaro di aver infranto le regole dell'etichetta, continuò a girare intorno all'imbarazzatissima ragazza, ridacchiando e commentando. «È molto bella, è davvero molto bella!» All'improvviso interruppe la passeggiata e chiese «È un aneddoto?» Gli occhi imbarazzati della ragazza assunsero un'espressione allarmata. Anna, che si stava dirigendo al suo posto dall'altra parte del tavolo, si affrettò a tornare indietro. La signorina McCausland le lanciò un'occhiata implorante. Anna temeva che la ragazza sapesse anche troppo bene quello che succedeva nella mente del re. Se aveva ragione, doveva intervenire in fretta, non solo per amore della signorina, ma per il re. Non ci sarebbero stati che guai se Sir Richard avesse dovuto rifiutare pubblicamente l'offerta del re. Anche Anna, dopo la morte di Faing, era stata oggetto delle sue attenzioni. Erano iniziate con il conferimento del titolo e terminate di recente con il dono di un magnifico anello di brillanti. Era stata in dubbio persino se accettare il titolo e preoccupata dal flusso di regali, ma dal momento che era costume del re fare doni alle persone di cui era soddisfatto, temeva di incrinare l'atmosfera piacevole che si era creata con quella che avrebbe potuto essere considerata una scortesia, quindi aveva accettato anche l'anello. C'era stato qualcosa di strano nelle maniere del re quando glielo aveva dato, ma anche se aveva continuato a pensarci, non era riuscita a definire la sensazione. Poi, con la posta, era arrivata la lettera di una francese che si proponeva come membro dell'harem. Arrivavano spesso lettere di questo genere da signore francesi, ma il re aveva sempre rifiutato. Provava un profondo orrore all'idea di essere il padre di un erede al trono franco-siamese. In quella occasione, in particolare, Anna gli consegnò la lettera con una risata. Lui la lesse e gliela restituì. «Risponda di no», le disse affrettatamente. Poi rivolse ad Anna la stessa occhiata curiosa che le aveva dato quando le aveva consegnato l'anello. «Se fosse inglese, ma una francese!» esitò, guardandola con uno sguardo carico di significato. Poi sembrò cambiare idea e si girò senza aggiungere altro, e in quel momento lei scoprì il significato dell'anello. Il giorno seguente lo restituì. «Vostra maestà», spiegò, «ho esitato ad accettare un regalo di tale valore e ora che ho avuto una settimana per pensarci, ho deciso che non avrei dovuto accettarlo. Naturalmente, se lei pensa che i miei servizi meritino un aumento di stipendio, lo accetterei con gratitudine». Il re riprese l'anello senza una parola. Si guardarono comprendendosi perfettamente, anche se la loro espressione era improntata al più rigoroso formalismo, e da quel giorno il rapporto con il suo datore di lavoro ritornò sulle basi precedenti. Tutto questo le passò per la mente nei pochi secondi che impiegò a raggiungere la signorina McCausland. Il re non desisteva mai facilmente. Quando c'era una bella qua c'era una bella ragazza irlandese e inoltre la sorella di un amico. Anna pensò di doversi frapporre all'impulsività del re, che poteva non rendersi conto di quanto sarebbe sembrato assurdo a un uomo come Sir Richard che alla sorella fosse chiesto di unirsi ad un harem. Ma prima che potesse arrivare il suo aiuto, il re continuò: «Voglio dire, non è sposata?» «Vostra maestà», interruppe Anna prendendo con fermezza in mano la situazione, «un aneddoto e una donna nubile non sono la stessa cosa in inglese. In effetti le due parole hanno un significato incredibilmente diverso». Il re sembrava estremamente seccato. «No», ribatté, «un aneddoto è qualcosa che non è stato ancora detto e una donna non sposata è qualcosa che non è ancora stato annunciato pubblicamente e sono lo stesso». Poi, per chiudere la disputa, prese le due bottiglie di acqua di rosa e con un movimento rapido inondò dalla testa ai piedi la bella ragazza che aveva davanti. «Ecco», commentò soddisfatto, «adesso sedetevi tutti». E sorridendo con aria di trionfo, si diresse verso qualcun altro. Anna fece quel poco che poté per la signorina McCausland, che era prossima alle lacrime. Sir Robert Schoenburg galantemente la fece sedere alla sua destra. «Bene, signorina McCausland», esordì, «ora sa cos'è un aneddoto e ho idea che i suoi amici in Inghilterra lo troveranno divertente, anche se per lei non lo è stato». Lei sorrise un po' tremante e lo sguardo allarmato scomparve. Mentre si precipitava al suo posto, Anna pensò che la cena era iniziata come un incubo. Bangkok sarebbe stata scossa per giorni dalla descrizione dell'inaspettato bagno nell'acqua di rose della signorina McCausland. Qualcuno probabilmente avrebbe scritto una lettera ai giornali di Singapore, forse anche a quelli di Londra, e il re si sarebbe infuriato. Comunque, le facce degli ospiti indicavano che almeno loro si erano molto divertiti e non erano arrivati nemmeno i tovaglioli. Prima che gli ospiti smettessero di ridacchiare discretamente per la situazione in cui si era trovata la signorina McCausland, comparve il nano del re con lo scopo evidente di divertire gli ospiti. Le venne un colpo al cuore. Non le avevano detto che Nailek, il piccolo signore, faceva parte del programma, altrimenti si sarebbe opposta vigorosamente, perché molti commensali ne avrebbero provato ripugnanza. Anna lo aveva visto per la prima volta l'anno prima a una processione. Aveva visto qualcosa che sembrava uno struzzo a cavallo. Era coperto di piume, con un lungo collo, una testa e un becco curiosi, un'enorme coda e ali che continuavano a sbattere in su e in giù. Più lo guardava, incredula, e più la gente che aveva intorno gridava e batteva le mani deliziata al suo stupore. Un momento lo struzzo stava in piedi sulla coda, l'attimo successivo sul becco e sbatteva per aria le ali e due gambette tozze. Poi fece scomparire le braccia e infilò le gambe nelle gambe dello struzzo che gli pendevano sul petto, trasformandosi completamente in un uccello, tranne che per due scuri occhi umani. Per due volte dal naso e dalla bocca gli uscì del sangue, ma sembrava che questo non disturbasse nessuno, tantomeno lo struzzo. Sembrava che la gioia di divertire il re e la famiglia reale fino alle lacrime fosse un compenso sufficiente per il naso che sanguinava e i denti rotti. Quando tutti i giochi furono finiti, il re gettò all'uccello un sacchetto pieno di denaro. Comparvero due uomini che portavano il suo cavallo e ancora una volta lo issarono in sella. Lo struzzo alzò il becco tre volte nell'aria, sbatté le ali violentemente per salutare il re e la famiglia reale e si allontanò tra i saluti. Il giorno seguente, Anna scoprì che lo struzzo era in realtà un nano, un laotiano del nord che era nato da una coppia di contadini alcuni anni prima. I genitori erano sicuri che il figlio fosse uno scherzo del diavolo o una sua impersonificazione. Oltre a essere strano, era anche ritardato. Durante una spedizione di caccia fu scoperto da uno dei fratellastri del re, il quale lo portò a Bangkok perché venisse addestrato in giochi di abilità. Dopodiché lo presentarono al re come buffone e commediante. Ad Anna sarebbe piaciuto vederlo senza costume, ma non gli era permesso entrare nell'harem se non in occasioni speciali perché spaventava alcuni figli del re. Quando lo vide lo trovò estremamente ripugnante. Aveva la testa coperta di capelli lanosi e la fronte stempiata, gli occhi estremamente vicini come quelli di una scimmia e aveva un'espressione selvaggia. Dalla bocca enorme uscivano due grossi denti, aveva orecchie larghe, il mento acuto e appuntito, era alto circa 1 metro e aveva le gambe così corte che se non fosse stato per gli enormi piedi piatti non sarebbero sembrate in grado di reggere la testa enorme e le spalle robuste. Come per accentuare la somiglianza con una scimmia, le mani quasi toccavano i piedi. La sua sola vista sarebbe bastata a rovinare l'appetito. Fu questa creatura che si avvicinò alla tavola riccamente imbandita e, afferrato una zuppiera, cominciò a rotearla audacemente, provocando lo stupore ammutolito degli ospiti. Le conversazioni si interruppero e tutti guardarono. L'appoggiò sulla punta dell'indice e se la fece ruotare sopra la testa senza farne schizzare una goccia. Poi la rimise sul tavolo e scomparve. Il momento dopo era di ritorno con un altro piatto per continuare la sua rappresentazione. A distanza di pochi minuti ricompariva e ripeteva i suoi giochi per la delizia degli ospiti e con profonda angoscia di Anna. Aveva fatto tutto ciò che poteva per rendere la cena corretta e dignitosa. Cosa poteva fare? Era anche troppo cosciente che se una parola di critica avesse raggiunto il re dopo il banchetto, la colpa sarebbe ricaduta su di lei. In quel momento entrò un paggetto e le comunicò che erano arrivati i tovaglioli. Lei si affrettò a uscire chiedendosi come avrebbe potuto distribuirli con tatto. Nel corridoio incontrò il principe Chulalongkorn, seguito dal re, che si affrettarono verso di lei reggendo balle di tovaglioli. Senza cerimonie, il re le gettò tra le braccia quelli che portava e tornò di corsa dai suoi ospiti. Si era ricordato lo scopo originario del banchetto, scopo che la bellezza della signorina McCausland gli aveva fatto temporaneamente dimenticare. Anna lo udì esclamare drammaticamente: «Chi può dire che sia un uomo minuto?» Gettò un'occhiata torva al gruppo di missionari in fondo al tavolo, ma loro erano serenamente ignari della loro colpa e si persero il senso della frase. Anna stava lottando con i tovaglioli, erano arrivati direttamente dall'Europa in gruppi di 12 e non c'erano forbici per tagliarli. Alla fine, disperata, Anna ne distribuì un rotolo ad ogni invitato e lasciò a loro il problema di gestirseli. Poi tutto andò bene, il cibo era delizioso. Sia i piatti siamesi sia quelli europei. Nel tardo pomeriggio era piovuto e l'aria fresca che entrava dalle finestre aperte si mischiava all'odore speziato di alcuni fiori. Gli ospiti risero e chiacchierarono e sembrò che si divertissero, Persino la signorina McCausland riguadagnò la sua compostezza e iniziò a mangiare. Alla fine della cena, il re fece la sua comparsa ancora una volta. Gli ospiti si alzarono per bere alla sua salute. Il console inglese, che aveva chiesto ad Anna bisbigliando i motivi della strana osservazione del re e che era stato in seguito messo al corrente dell'intera storia, propose un brindisi. Alla sua graziosa maestà, il re del Siam, il nostro ospite, sarebbe un giorno triste per il paese se il re diventasse un uomo minuto. Sulle facce di alcuni ospiti comparve un'espressione sorpresa, ma il sorriso del re era quello di un bambino soddisfatto. Guardò i missionari con aria di trionfo. Aveva dimostrato di avere ragione.